Gente che si sente fuori posto, gente che non sa come mai, guarda sempre intorno, si troverà sempre sola con sé. Era nello sguardo di qualcuno, verso nel suo mondo come lui. Forse a questo punto lo capirà cosa è meglio per sé. Mi sento fuori posto, sono fuori posto, fuori posto e sempre fuori posto. Fuori posto, solo fuori posto. Finalmente dove andare, solo che non so dove va. Credo sia riuscito a superare ogni timore che ha. Mi sento fuori posto, sono fuori posto.